Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Un buon pomeriggio, ottobre è ancora tempo di vendemmie e allora ce ne andiamo a spasso per cantine su strade che attraversano valli. Questa volta però torniamo anche a guardare lontano, il sommario. Questa settimana andiamo in Alto Adige per percorrere le vie del vino, poi vi raccontiamo di passeggiate da fare a sei zampe e poi andiamo in Siria con una guida d'eccezione. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems. Queste sono le settimane in cui la vendemmia, a seconda del tipo di vino e dell'altitudine, anima le cantine e le cantine si aprono con tutti gli accorgimenti del periodo per coinvolgere estimatori e curiosi. In Alto Adige ci sono sentieri che vi portano per mano alla scoperta di vini e paesaggi. Sei itinerari dalla Val Venosta alla zona di Merano, la Valle Isarco e la famosa strada del vino. Il direttore del consorzio vini è Edward Bernard. La vendemmia del 2020 devo dire che è una vendemmia buona finora, per fortuna adesso le temperature sono calate, questo è molto importante. Poi dobbiamo considerare che noi abbiamo i vigneti diciamo dalla quota che variano fra 200 e più di 1000 metri sopra il livello mare, no? Per quello la vendemmia da noi non è o non viene fatta diciamo in una settimana, ci vogliono proprio delle settimane per poi vendemmiare tutte le zone, che tutte le quote che abbiamo, e poi al di là abbiamo anche diverse varietà, no? Ovviamente per noi molto importanti sono tutte le varietà a bacca bianca, no? Come soprattutto il Gewürztraminer, il Pinot Bianco, il Chardonnay, il Silvaner, il Riesling, il Kerner, il Sauvignon, e poi abbiamo anche tutte le varietà a bacche rosse, soprattutto quelle autoctone come la Schiava e anche il Lagrein. Così la Schiava per esempio matura un po' più prima, la Lagrein più tardi, e poi ovviamente anche tutte le varietà internazionali come il Pinot Nero, il Merlot, il Cabernet Sauvignon. E per quello anche questo una vendemmia, no, che va avanti sempre per settimane, per mesi. Abbiamo iniziato nella bassa valle Tessina con delle varietà bianche, e poi andiamo verso il Val Venosta, verso il Val Isarco, che poi vendemmiano tardi, considerando che infatti arriviamo a una quota sopra 1000 metri sopra il livello del mare. Ma in generale possiamo dire che ci aspettiamo un'annata molto interessante. In qualità di presidente del consorzio è proprio la persona giusta per raccontarci anche come e se le cantine si stanno aprendo ai visitatori, visto che poi l'arco temporale in cui si snoda la vendemmia è abbastanza lungo. Allora, ovviamente tutte le cantine si sono attrezzate per quanto riguarda tutte le regole l'igiene per quanto riguarda il Covid, no? Per quello ovviamente sono aperte tutti i nostri le nostre vinoteche, no? Quelle delle cantine si può degustare. Al momento in generale le visite guidate in cantina sono un po' limitate, ma sono delle cantine che comunque hanno aperto le loro visite guidate, ovviamente sempre rispettando tutte le regole. Allora, gruppi piccoli, soprattutto famiglie, no? Questo è importante, cioè di rispettare le regole, ma lì devo dire che siamo veramente molto molto attenti e rispettiamo tutto quello che è necessario. Ci sono dei percorsi che consigliate come proprio vie del vino. Ne scegliamo almeno qualcuno per presentarlo agli ascoltatori? Sì, molto volentieri. Allora, di sicuro vorrei citare solo alcuni, no? Ma per esempio il percorso del vino che si snoda lungo il lago di Caldaro è bellissimo, poi anche il sentiero del Gewürztraminer che si sviluppa per circa 3,5 chilometri attraverso il piacevole e idillico sentiero dei vigneti di Termino, ma poi sono anche i sentieri enologici della Val Venosta, la via del vino di Terlano, la zona di Santa Maddalena con i vitini storici della Schiava o anche il sentiero enodidattico di Cortaccia e molti altri. Questi sono ovviamente tutti all'aperto e sono bellissimi e così veramente diciamo gli ospiti hanno la possibilità di entrare in quel mondo enoturistico della vitivinicola Alto Atessina. C'è la possibilità di mettere insieme, no, la visita e quindi la scoperta anche gastronomica, mi permetto di aggiungere, e anche la scoperta del territorio, perché ovviamente magari uno non si spinge fin lì solo per gustare, ma anche per apprezzare con gli occhi. Esatto, e questo soprattutto, come dice lei, è il bello, no? L'insieme di tutte queste cose, no? Perché così diventa veramente si chiude un cerchio, no? E questo è veramente una possibilità bellissima nell'Alto Adige, no? Considerando che abbiamo 5.500 ettari, siamo diciamo uno dei territori vinicoli più piccoli d'Italia, ma infatti grazie alla nostra posizione geografica possiamo offrire veramente delle possibilità bellissime per i nostri ospiti, per i turisti, per vivere questo mondo enologico, enoturistico e ovviamente anche gastronomico. Per quanto riguarda la gastronomia, di sicuro è un posto molto, molto interessante perché abbiamo veramente un insieme di tantissime influenze, no? Per esempio abbiamo le influenze austro-ungariche, bavaresi, ma ovviamente anche quelle mediterranee che rappresentano una risorsa importante per l'enoturismo. Le passeggiate, i viaggi a piedi, i sentieri sono un nostro pallino. Questa settimana vi raccontiamo passeggiate più o meno impegnative da fare assieme ai vostri cani. Alina Gargiulo è una istruttrice cinofila e assieme a due guide propone ogni mese un itinerario diverso. Per conoscere le proposte potete andare sulla pagina Facebook di Alina oppure scrivere a sentieriasseizampe@gmail.com. Questo Sentieri a Sei Zampe nasce dalla collaborazione tra due figure professionali, io Alina che sono l'istruttore cinofilo e due guide escursionistiche ambientali, Erika e Massimo. Abbiamo deciso di fondare questo progetto insieme per dare la possibilità sia alle persone diciamo che abitano in un ambiente urbano come può essere grandi città, Milano, Genova oppure città per esempio del Veneto, del Piemonte, di fare delle passeggiate in giornata. Noi concentriamo le passeggiate o il sabato o la domenica e stiamo via tutto il giorno, e di fare un'esperienza bella con il proprio cane, ovviamente seguiti e guidati da dei professionisti. Quindi, oltre a fare, diciamo così, la camminata con il proprio cane, avete anche date piuttosto la possibilità anche di conoscere un ambiente, perché visto che siete accompagnati da delle guide, immagino che poi ci sarà anche la parte della scoperta del territorio. Sì, esattamente. Le guide, ovviamente confrontandosi con me, che do delle indicazioni magari di quanto deve distare da una città piuttosto che un'altra e anche se fare una passeggiata più o meno lunga e più o meno complessa, trovano dei percorsi. e ovviamente li vanno poi a scoprire, a conoscere, per dare delle competenze ovviamente in ambito naturalistico ai partecipanti che decidono di iscriversi. Quindi le guide, oltre a diciamo accompagnare le persone in sicurezza, ma danno proprio delle caratteristiche, delle competenze, sì, delle competenze sul territorio. Raccontaci un po' come funziona praticamente, perché immagino, anche considerando tutte le misure che bisogna prendere in considerazione in questo particolare momento, immagino che sia necessario iscriversi e che forse voi abbiate anche un numero massimo di partecipanti. Sì, esatto. Allora, funziona in questo modo, che quando le persone ci contattano, e generalmente ci contattano tramite mail, parlano con me, che sono l'istruttore, io diciamo che formo il gruppo dei cani, perché ovviamente possono partecipare cani che hanno delle caratteristiche, diciamo, di sociali, che sono cani che non sono aggressivi nei confronti degli altri cani o delle persone, perché altrimenti questo non permetterebbe di godersi appieno una giornata ovviamente in un gruppo. Io prendo al massimo 8-10 cani alla volta, perché altrimenti ovviamente è difficile anche gestire e fare una camminata appunto di gruppo. E poi ovviamente c'è un numero massimo di partecipanti, che soprattutto in questo periodo ovviamente varia anche dalle disposizioni regionali. Quando noi abbiamo ripreso dopo il periodo Covid, per esempio, avevamo un massimo di 10 partecipanti di persone a guida. Quindi solitamente il gruppo di persone è composto da una quindicina di partecipanti umani e poi 8-10 cani. Noi indichiamo anche se possono partecipare per esempio famiglie con bambini, perché le guide, quando vanno a fare i sopralluoghi, poi indicano il dislivello specifico della passeggiata, il numero di chilometri e quindi anche la difficoltà, e in base a quello invitiamo anche o meno famiglie con bambini. Alina, parliamo un po' dei prossimi appuntamenti, così ci illumini un po' su quelle che sono le possibilità. Sì, allora, il prossimo appuntamento, che sarà domenica 18 ottobre, andremo in provincia di Lecco, e sarà una passeggiata lunga circa 10 chilometri, con un buon dislivello, circa 400 metri di dislivello, quindi in questa passeggiata, per esempio, è adatta a persone con un minimo di allenamento fisico, comunque che sono abituate a fare camminate su sentieri, e è consigliata a bambini che sono abituati a camminare in montagna dagli 8-10 anni in su. Per esempio, invece, la passeggiata di novembre, visto che noi proponiamo un appuntamento al mese, invece quella passeggiata sarà adatta anche a famiglie con bambini, perché i chilometri saranno sempre sotto, diciamo, i 10, però il dislivello sarà molto basso, sui 250 metri di dislivello, e in quel caso andremo in provincia di Genova. Qual è il vostro raggio di azione? Rimaniamo nel nord Italia? Per adesso rimaniamo nel nord Italia, ma nelle nostre intenzioni c'è anche l'idea di iniziare a collaborare magari con guide escursionistiche ambientali o anche con istruttori cinofili in varie parti d'Italia. In modo tale sarebbe bello magari creare una rete di professionisti che offrono passeggiate in territori in varie regioni d'Italia diversi, ecco. Ci fermiamo solo per qualche istante, restate con noi. Globetrotter 24. Per molti mesi non abbiamo messo il naso fuori dai confini nazionali. Quello che raccontiamo oggi, però, non è un viaggio come gli altri. È uno sguardo diverso sulla Siria che è stata e su quella che ci auguriamo torni a essere. Don Roberto Di Diodato, giornalista e regista, assieme al giornalista Fulvio Scaglione e a una troupe televisiva, hanno girato la Siria nel 2011 e da questo viaggio è nato un libro. C'era una volta la Siria in tempo di pace. Questa esperienza nasce dal viaggio con una troupe televisiva che mi ha accompagnato in Siria per realizzare diversi documentari a carattere storico, religioso e artistico. Il viaggio è iniziato praticamente, è stato realizzato nel 2001, quindi in tempi in cui davvero la Siria era bella. Si poteva godere, si poteva sentire tutto il fascino di una nazione che aveva un grande patrimonio artistico e culturale, storico alle sue spalle, che scoppiava di salute, diciamo, ecco. E quindi è stato possibile vedere una Siria attraverso l'obiettivo della macchina da presa, della cinepresa e della macchina fotografica, quindi entrare anche dettagliatamente nei siti archeologici, nelle bellezze dei suoi deserti, nella bellezza delle città e anche nella bellezza degli occhi della gente, perché accanto a una Siria raccontata attraverso l'esibizione dei monumenti, del patrimonio artistico e culturale, e abbiamo potuto indagare anche sulla vita delle persone, entrando in contatto con la gente, sperimentando la loro ospitalità, accompagnati in questo da una guida che effettivamente non era più una guida per noi, ma era addirittura una specie di Virgilio che ci accompagnava in paradiso, ecco, non nell'inferno attuale, ma in paradiso. Allora, Don Roberto, ci accompagni un po' in questo viaggio che noi tutti speriamo che prima o poi si possa fare. Ovviamente qui non è tanto un problema, come sappiamo bene, di pandemia, ma è un problema di guerra che purtroppo ancora devasta questa terra. Certo. Ci accompagni un po', ci racconti un po' proprio il giro che avete fatto, perché deve essere un paese bellissimo la Siria. Sì. Noi siamo entrati in Siria dal confine con la Turchia, da Akkale, questo snodo adesso diventato importante proprio per le guerre e le diverse guerre in corso attorno alla Siria. Siamo entrati da Akkale e siamo andati verso il fiume Eufrate a vedere le prime grandi città antiche come Dura Europos, Mari, e poi siamo rientrati dentro la parte più più conosciuta, vale a dire Palmira, Malula, Damasco, e salendo su fino all'Latakia, ad Hama e ad Aleppo, per cui abbiamo visto sicuramente i siti archeologici di storica importanza, appunto come Mari, come Ebla. Ecco, sono siti che hanno praticamente, poggiano le loro radici nella storia della cultura dell'umanità, dell'Occidente, dove naturalmente si è sviluppata la prima scrittura, i primi modi di vivere associati in regni, in strutture politiche già molto complesse. E poi siamo andati a vedere le città attualmente che erano all'epoca naturalmente visitabili, come Damasco, Latakia, Aleppo, tutti siti, tutte città che hanno proprio il fascino del Medio Oriente, di quello che noi intendiamo per Medio Oriente quando parliamo appunto, usiamo questa espressione, quindi con tutte le fantasie, con tutte le bellezze, con tutti i calori, con tutti gli odori, con tutti i sapori di città vive. E siamo entrati dentro i souk di Aleppo e di Damasco per andare proprio a guardare come viveva la gente, che cosa faceva la gente quotidianamente, perché i mercati, lo sappiamo, sono, come dire, la cartina di tornasole di una nazione, e abbiamo visto grandi ricchezze, grandi bellezze, molta, molta fraternità, molta comunicazione, anche forse delle sacche di povertà, perché siamo entrati accompagnati da questa nostra guida nelle parti più oscure dei souk, dove naturalmente ci sono i fabbri che lavorano quasi dentro dei siti infernali. Abbiamo visto dei tessitori di velli di pecore e di capre che vivono praticamente in posti dove è assolutamente difficile poter entrare. Ecco, questo ci ha fatto vedere che oltre a una grande antichità, una grande bellezza fatta di monumenti, per esempio di Palmira, che sicuramente è il monumento più bello, uno dei più belli secondo me del Medio Oriente, abbiamo potuto vedere anche le cose meno appariscenti, quindi la vita dei souk, ma anche la vita sotto le tende del deserto, dei beduini, di persone che vivono marginalmente rispetto alla società sviluppata comunque della Siria. E questo ci ha fatto capire come in ogni posto, in ogni luogo, c'era comunque una scintilla di bellezza, una scintilla di nobiltà, una scintilla di benevolenza verso di noi che stavamo scoprendo così una nazione che non avevamo mai potuto immaginare che fosse così bella. The joy you could not measure, they'd wait for him. Senta, Don Roberto, lei ha nominato più volte Palmira e ovviamente nell'immaginario collettivo Palmira richiama anche un po' a quelle che sono state le devastazioni del califfato. Secondo le vostre notizie, che cosa davvero è andato poi perduto, che non si potrà mai più vedere? Che cosa invece resta di questo paese che, lo ricordiamo appunto, è ancora devastato dal conflitto? La cosa che ha sorpreso, quindi ha fatto piangere un po' tutto il mondo dell'arte, della storia, è stato l'abbattimento da parte del califfato del Tempio di Bel. Il Tempio di Bel è uno dei monumenti sicuramente più significativi di Palmira. E questo purtroppo bisognerà capire se sia possibile effettivamente restaurarlo. Invece pare che non siano stati distrutti con la stessa ferocia altre parti del sito, soprattutto il colonnato pare che sia stato risparmiato, che poi il colonnato è, come dire, l'immagine simbolica di Palmira. Insieme al Tempio di Bel, altre parti del sito, diciamo anche se importanti ma secondarie, sono state distrutte. Però credo che si darà alla Siria la possibilità di restaurare ciò che è stato distrutto, questo Tempio di Bel potrà essere ancora visto. L'ultimissima domanda invece, Don Roberto, è questa. Lei mi conferma che durante questo viaggio voi avete incontrato Padre Dall'Oglio? Sì, abbiamo incontrato Padre Dall'Oglio sulla sua missione in Al-Nab, questo monastero dove lui viveva in una povertà assoluta, e soprattutto quello che ci ha impressionato di più è stato proprio il suo vivere alla maniera siriana, vale a dire senza mantenere niente di occidentale, quasi dal vestito al modo di mangiare, al modo di vivere con con i suoi confratelli. Tutto ci ha fatto pensare che lì effettivamente potesse succedere qualche cosa di nuovo, qualche cosa di ancora più straordinario, anche sentendo un po' quello che ci aveva detto, no? E quindi, come dire, siamo venuti via con un senso anche di allegrezza, no? Perché dava la sensazione che quest'uomo avesse la possibilità, sicuramente di tipo spirituale, di tipo interiore, di tipo che gli veniva dal cielo in qualche maniera, perché potesse far accadere qualche cosa di nuovo, un modo diverso di rapportarsi tra culture, tra religioni, tra stili di vita, tra modi di comunicare, perché questo suo parlare, questa sua comunicazione è stata una idea veramente, veramente straordinaria. Per questa domenica ci fermiamo qui. Se volete scriverci, come sempre, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.